Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Da quest'anno anche i bambini di 5 anni seguono con gioia e con grande concentrazione il corso di calligrafia. Abbiamo studiato tanti tipi di scrittura, però mi è piaciuto di più l'onciale, che sarebbe una scrittura usata dal V al VII secolo dopo Cristo. Ma dopo questo corso di bella calligrafia, tu scrivi un po' meglio in corsivo? Sì, devo ammettere, perché c'è un'altra scrittura, tipo si chiama Italica Humanistia, che è simile al nostro corsivo, e grazie a quella ho migliorato molto la scrittura in corsivo. I ragazzi della seconda media di Terranuova Bracciolini invece mostrano con orgoglio il lavoro di calligrafia fatto lo scorso anno. Basta, non se ne può più, anche quella che dice la bella calligrafia. La calligrafia già è bella in sé, vuol dire la bella calligrafia. Comunque, io guardate, sono veramente felice che sia stato questo esempio, questo faro che illumina la nostra inciviltà. Il governo della Finlandia sta facendo una riforma della scuola e ha stabilito che ha abolito la calligrafia come materia scolastica. Basta più anni col con la penna in mano. A miei tempi c'era il cannello con l'inchiostro, figurateci da che epoca arcaica io sto provenendo. Niente, non si fa più la calligrafia. Se vogliono la fanno come materia facoltativa, come uno può fare, che ne so, filologia ugrofinnica, ecco, uno degli esami facoltativi alla mia facoltà era filologia ugrofinnica, e infatti dal regno finnico per eccellenza che è la Finlandia hanno abolito la calligrafia. Perché sono così avvelenato e così felice del fatto che i bambini finlandesi impareranno dalla più tenera età la scrittura liquida, quella attraverso la tastiera, attraverso il touchscreen? Hanno capito i finlandesi, che sono avanti, che non deve fargli perdere tempo a fare le aste, le assicelle, e poi con le righe di prima, le righe di seconda, finalmente le righe di terza, poi arrivano le righe di quarta, poi le righe di quinta. Ogni anno c'era una riga più fina, dentro quale bisognava tenere comunque le belle lettere tondeggianti con lo svolazzo. Io mi ricordo, fui trattato come una sorta di handicappato per tutte le elementari, tenevo male la penna in mano, me la legavano con lo spago, giuro, la maestra mi legava le due dita, il dito indice e il dito medio devono stare accoppiati, uno leggermente avanti. Io non ero capace di tenere la matita in mano in quella maniera, e la tenevo come la tengo ancora, la infilo in mezzo alle due dita, sembra che tengo in mano uno scalpello, sembra che tengo un piccone, ma ho scritto abbastanza nella vita pur tenendo male la penna. Beh, questo esercizio formale importantissimo, avete sentito, utilissimo, scrivere bene in bella calligrafia, è stato abolito. Che sarà di noi che non scriveremo più a mano? Ma io penso continueremo a scrivere a mano, come continueremo a fare tante altre cose, ma sarà bene, cominciamo subito a entrare nell'idea che gli strumenti con cui noi più facilmente scriveremo nella vita saranno delle tastiere o saranno degli schermi in touchscreen. Il mio figlio maggiorenne, fino al terzo anno di liceo, era costretto a fare temi, componimenti, compiti in classe con la penna a biro. Per loro era una tortura, ormai non scriveva più nulla con la penna nella sua vita quotidiana, ma a scuola bisognava scrivere con la penna, chissà perché. E cosa ne pensate voi? Siete inorriditi? Dio mio, che sarà? Non scriveremo più quei bei quaderni in bella copia che ancora conservano le mamme? Guarda come si scriveva bene. Non c'è più niente, niente più, la penna non si scrive più. Qual è il risultato però? Non avremo più quaderni da conservare, non avremo più lettere, non avremo più bigliettini, diari, pizzi e pizzini, sarà tutto elettronico, avremo tutto dentro dei comodi file che potremmo conservare, potremmo inviare, potremmo condividere. Questo vi fa paura? Quanto avete la vostra vita ancora scritto a mano? E per voi è importantissimo, lo tenete lì, aprite quegli astucci ammuffiti con quel bello odore di carta che è andata male, e li sfogliate con le pagine incollate, e ci lasciate una lacrimuccia, così si incollano ancora di più. Beh, questo non ci sarà più niente, tra un po' diventerà carta velina, tra un po' diventerà evanescente, scomparirà. 800240024, la scomparsa della scrittura a mano vi affascina o vi deprime? Nell'era del digitale, di schermi e tastiere, quanto è importante la calligrafia? Allora, la calligrafia è importante per due motivi principali. Il primo può essere quello che ha delle applicazioni nel lettering e quindi in tutto quello che è la comunicazione che avviene attraverso le lettere. La forma di una lettera deriva molto spesso dalla sua forma in calligrafia, e questo è, diciamo, più un motivo tecnico. L'altro motivo può essere quello invece di ritrovare dei gesti e dei ritmi molto più umani, più lenti, che ci appartengono e ci hanno appartenuto per molto tempo, mentre usare la tecnologia per comunicare, quindi le email, gli sms, tutto questo di sicuro facilita e velocizza l'intento di comunicare, però lo uniforma, quindi tutte le mail arrivano scritte nello stesso modo. Sì, si può scegliere il carattere più o meno grande, ma non è una cosa che viene da noi, dal nostro gesto, e non comunica nessuno. 800240024, vi mancherà la calligrafia, vi mancheranno quei lunghi mesi, se non anni, passati su quaderni. Pensate che una fase formativa dell'umanità che è scomparsa. Non saremo più abbastanza umani perché non sapremo più scrivere in calligrafia, scrivere a mano, scrivere in maniera intelligibile. Ci accontenteremo degli scarabocchi che fanno oramai le persone abituate a scrivere con una tastiera. 800240024, non so rispondere all'ascoltatore che manda adesso un sms e mi chiede se può aiutare la sua donna in menopausa assumendo isoflavoni di soia. Lo chieda domani alle colleghe che si occupano della fase precedente. Francesca, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Lei è una vittima della calligrafia? Io sono una vittima delle insegnanti, non solo della calligrafia, dei mezzi per farla, perché adesso si sono inventati le sferografiche. Voi non sapete cosa sono? Sono delle penne con delle cartucce che si mettono d'inchiostro. Costano, l'ira di Dio, si produce una quantità di rifiuti industriale, ma sembra che i bambini senza quelle non possono scrivere. Una bellissima penna Bic con la quale si fa miracoli, no, non si può portare, ci vuole la sferografica. La sferografica? Sferografica, non solo la matita, ci vuole la matita ergonomica, perché l'impugnatura deve essere corretta, lei ne ha appena parlato. È una matita triangolare con dei gommini che la tengono ferma, di uno scomodo, ma di uno scomodo che io ti dipingo non riesco a usarla. Mio figlio è stato torturato, c'è ancora il buco nel dito dove appoggiava questa dannata matita, che il cielo li fulmini tutti. Ah, vedi, finalmente ho trovato un'alleata. Le pensi che ai miei tempi avevamo il cannello con l'inchiostro del calamaio che riempiva il bidello tutte le mattine, ci facevamo delle bestie, avevamo la carta assorbente, il pennino che si rompeva sempre, i compagni cattivi che ci tiravano il cannello come fosse un giavellotto, il foglio che si macchiava e la maestra che si arrabbiava. Quindi stiamo lanciando una crociata di liberazione dalla determinazione maniacale delle maestre che mettono tutta la loro frustrazione nell'insegnarci come tenere la penna in mezzo alle dita. Non c'è più questa cosa qua. C'è una libertà totale di usare soltanto tastiere e touchscreen, perché soltanto con queste non scriveremo nella nostra vita. Voi dite, ma sì, ma se finisce, se non c'è campo, se non hai la ricarica, con che scrivo? Scrivo con la penna, perché se avrò scritto per 20 anni con una tastiera, comunque saprò scrivere con una penna. Non saprò fare lo svolazzo, non saprò tenere in mano la matita triangolare ergonomica, non saprò scrivere in bella, saprò soltanto scrivere degli scarabocchi intellegibili appena, però almeno avrò fatto delle cose che avranno avuto un senso, avrò imparato a scrivere con un sistema che mi permette di copia e incollare e di trasferire dei pezzi del mio componimento da una parte all'altra, che mi permette di correggere velocemente, mi permette di scrivere di getto e poi ripassare. È tutta un'altra scrittura. Davide? Sì, pronto. Lei rimpiange? Buongiorno. Sì. Buongiorno, buongiorno. Io stavo ascoltando un po', insomma, questa decisione del governo finlandese e mi sembra abbastanza negativa a 360 gradi, però io che sono una persona che ama scrivere canzoni, quindi testi, eccetera, e trovo ancora del gusto, del sentimento trovare le parole scritte a penna su un foglio di carta. Cioè, però mi sembra un po', proprio scrivere il testo di una canzone, che penso sia un lavoro di continua sovrascrittura, non fa prima scrivere su una tastiera, quando una cosa non le quadra la riscrive, la cancella, la riscopia, ci scrive sopra. Sì, sicuramente si fa prima, però... Vabbè, è un gusto artigianale il suo, è giusto mantenerlo come un'attività personale, come quelli che fanno ancora i velieri dentro la bottiglia, nessuno lo vieta, si può fare chiaramente, ma è un'attività dedicata a chi ha tempo da impiegare in questa attività. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Filosofo della scienza e storico, affido a te, visto che è una delle materie in cui più ti applichi l'attenzione verso i nativi digitali, come vedi la decisione del governo finlandese? Ma innanzitutto io andrei un po' più nel dettaglio dell'esperimento finlandese, perché va detto che non è stata estromessa l'insegnamento della scrittura, sì, è facoltativa, mano, dalla scuola finlandese. È garantito, diciamo così, per intenderci, il minimo sindacale. Tutti devono imparare a scrivere a mano, con la mano, il corsivo e lo stampatello. Dopodiché sta all'insegnante decidere, il singolo insegnante, quanto tempo dedicarci di più. Certo, l'insegnante deve far imparare ai propri studenti della scuola primaria un'interazione con, nella fattispecie, le tastiere, più in generale con la tecnologia. Ricordiamo che l'esperimento didattico finlandese aumentato dalla tecnologia è uno dei più avanzati al mondo, non solo, ma gli studenti finlandesi, anche da recenti dati consultabili pubblicamente, sono tra i migliori quanto a risultati ed acquisizione di competenze scolastiche, tra i migliori al mondo. Quindi non stiamo parlando di pazzi scatenati che in nome di qualche utopia futuribile vogliono uccidere la penna e costringere semplicemente la mano sulla tastiera. Stanno tentando di gestire una transizione a una didattica aumentata delle tecnologie, e quindi stanno tentando di progettare un'educazione sensata per interagire anche con le tecnologie. Io infatti, Stefano, ho portato l'esempio paradossale della scuola italiana, in cui ancora in terza liceo i ragazzi sono obbligati a scrivere soltanto con la penna, anche i temi, anche i componimenti, quando farebbero molto prima, quando ormai la scrittura del proprio pensiero è per forza condizionata da un software di scrittura elettronica che si è abituato comunque a prendere, trasportare frasi, a copia e incollare, a cercare sinonimi attraverso quello che ti mette a disposizione il software. E questo trovo che sia l'estremo opposto. La Finlandia sta facendo, secondo me, un cammino giusto di transizione verso una generazione che sempre più userà come strumenti primari di espressione grafica del proprio pensiero degli strumenti elettronici. Melog, cronache meridiane. Impugniamo bene la penna, numero 3, all'incantata, leone che ruggisce e sbadiglia, ci fermiamo a due dita di distanza dalla punta e, per favorire questa posizione, mettiamo un elastichino. Poniamo la mano che non scrive a fianco al luogo dove inizieremo a scrivere e poniamo il nostro quaderno su un piano inclinato. Bene, iniziamo a scrivere. Vista e visione. Pausa. Il cipollotto 800240024, abbiamo necessariamente forzato il tema e contrapposto due mondi come se fossero antitetici: il mondo di coloro che pensano che la scrittura a mano sia comunque pregna e significativa e rivelatrice degli stati umani e degli stati d'animo di un essere che scrive. Molti infatti stanno scrivendomi via SMS dicendo si perdono le tracce della persona che ha scritto, del suo stato d'animo, di quello che provava mentre scriveva. Con la scrittura digitale tutto questo andrà perso, ma non andrà perso. Se uno si esprime scrivendo, è l'espressione stessa della sua scrittura che darà il senso di quello che ha scritto. Altri mi dicono: hai avuto una vita triste e svantaggiata, oggi sei acido e tetragono, poi con quei problemi di fonetica, ma esce e cammina. In questo momento sto lavorando, poi posso anche andarmi a fare una passeggiata. I problemi di fonetica, sì, ho un rotacismo abbastanza evidente, non so cosa farci, è uno degli altri problemi che hanno reso infausta la mia scuola elementare, assieme a quello che impugnavo la matita come fosse una zappa. Questo mi diceva la maestra. Davide, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Davide, chiamo da Arezzo. Sì. No, io volevo dire che secondo me invece la calligrafia non è molto importante saper scrivere bene perché a me rilassa molto. Il fatto di non dover cioè di scrivere di getto e poi cancellare o cambiare non mi piace. Mi piace progettare in mente la frase, progettare in mente prima tutto e poi buona la prima, scrivo con inchiostro e calamaio e mi dà una bella sicurezza anche nella vita il fatto di pensare prima a quello che uno dice, pensare prima a quello che uno dovrà scrivere. Però la sua professione non è lo scrivere, evidentemente. Non è lo scrivere. Lei ha un hobby e questo hobby lo applica nella maniera migliore, fa bene, se la rilassa, le piace, è un'attività artistica la sua, diciamo così, assomiglia un po' all'esercizio giapponese, la calligrafia, che è quasi una disciplina mistica, ma se lei dovesse scrivere come professione o il suo lavoro fosse quello di scrivere, lei non farebbe che benedire tutti i giorni i programmi di scrittura che tanto hanno facilitato la vita. Io sono di generazione antiquata e quindi ho iniziato a fare questo lavoro ancora con la lettera 22 che mi portavo dietro. Era veramente una cosa terrificante scrivere un pezzo con il bianchetto, sbianchettando, che alla fine uno si stufava di correggere e mandava così com'è. Mosè, buongiorno. Buongiorno. Beh, oggi David, Mosè, abbiamo tutto l'Antico Testamento. Sì. Allora, io ad esempio invece torno alla calligrafia proprio sul digitale, cioè partendo dal vecchio Newton, quindi Palm e compagnia briscola con i vari graffiti, perché non si è inventato nulla di nuovo, anzi si è peggiorato con tablet e compagnia rispetto a questi palmari fin dalla prima generazione, uh-huh. e utilizzando la scrittura in diretta sullo schermo sicuramente si riesce innanzitutto a coordinare pensiero a mano, cosa che invece con questi schermi touchscreen dove devi andare col zigino con tempi biblici ti riduci o ai sommi capi o a una sterilità di linguaggio incredibile e comunque oppure costringi il tuo interlocutore ad attendere tempi biblici per scrivere queste pidate oppure finisce con quelle schifezze tipo gli sms. È un po' sommare come lettura. Stefano Morigi, ricordo, filosofo della scienza, storico, ma soprattutto in questo momento attento osservatore dell'evoluzione scolastica, dell'apprendimento verso la scuola. Come vedi è un po' difficile creare una forma di fusione fra due punti di vista. Chi ormai considera la scrittura elettronica come una riduzione dell'umanità e pensa che scrivendo con sistemi elettronici ci si esprime diversamente, e chi invece, come me probabilmente, non dà più nessun valore alla scrittura a mano. Tutti scriviamo a mano naturalmente, ma ecco l'appuntino che ho adesso davanti, che ho scritto 55:30, che è l'orario di chiusura. Guarda, tra sbavature e imprecisioni degli ultimi due ospiti che hanno parlato, c'è un problema che va affrontato, cioè l'abbiamo detto più volte, l'interazione con strumenti tecnologici diversi mette in campo pratiche concrete e elaborazioni concettuali di tipo diverso. Non c'è dubbio che utilizzare una penna sulla carta mobilita una pratica e quindi anche un modello di elaborazione concettuale diverso che interagire con le tecnologie, ma il problema è come gestire le due pratiche, i due mondi. Il progetto finlandese di cui stiamo parlando non ha alcuna intenzione di cancellare il passato sostituendolo con un futuro ancora tutto da comprendere, ma di mantenere il passato e progettare un futuro, perché l'interazione con una tecnologia e quindi con una scrittura e una lettura diversa da quella tradizionale non avviene in maniera tra virgolette naturale, ma va progettato con un esperimento didattico che consenta un'introduzione sensata, graduale e pensata. È anche una presa in carico del fatto che oramai i ragazzi da piccoli già usino tastiere, quindi perdere tutto quel tempo, tutti quegli anni in un esercizio bellissimo, romantico, utile, ma che in realtà non darà loro nessun strumento pratico d'espressione, forse va ridimensionato. Cristina, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Allora, sì, ok, posso essere d'accordo su tutto, però io sono convinta di una cosa, le cose belle, profonde, rimarranno sempre sulla carta. Tipo? Ovvero, se io devo scrivere una lettera, devo comunicare una lettera d'amore, devo comunicare delle cose importante li scrivo tuttora sul foglio, sulla carta, e anche vedo anche le mie bambine hanno il diario, e quando devono scrivere qualche cosa, qualche magari una lasciamo per le bambine, poi la tradiranno presto in questa sua aspettativa. Lettere d'amore oggi si scrivono attraverso WhatsApp, soprattutto è quello che veramente rende pregnante un rapporto amoroso. A domani.